www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi. E mentre nella fabbrica di polli si discute del tredicesimo apostolo, Kappa e Drago hanno appena ricevuto una telefonata minacciosa. San Paolo non vede di buon occhio questa chiesa di Amuchele, perciò si regolassero. Drago! Il Vaticano ci ha scoperti! Siamo spacciati! Finiremo impiccati al ponte dei frati neri sulle acque limacciose del Tamigi! Aia! Attenta come parla, Tenente Drago! Il cielo è dalla loro parte! E noi? Chi abbiamo dalla nostra parte? Si fa quel che si può. Presto! Tenente Drago! Travestiamoci da preti americani di piantoni e giardinetti, così confondiamo le acque! Cosa c'è? Non so dove recuperarli, vestiti da prete americano di piantone e giardinetti. E poi, non ho intenzione di travestirmi da prete americano di piantone e giardinetti. Tenente Drago! Osa rifiutare un mio ordine? È una questione di dignità. Presto! Si autodichiari in arresto per insubordinazione. Subito, comandante Kappa. E poi azioni immediatamente il segnalatore di Acqua Santa. Così, se qualcuno di loro si avvicinerà, saremo subito avvertiti. Cosa c'è adesso? Se mi autodichiaro in arresto, non posso azionare il segnalatore di Acqua Santa. Tenente Drago! Dica, comandante Kappa. Si autoelimini e la facciamo finita. La fabbrica di polli. E pollastri? Pollo in sbattimento, ciao. Ciao, no, ciao. Ascoltate un attimo. Siete pronti allora per le prove del concerto, no? No, sì, quale però. Concerto? Cosa stai dicendo? Calmati, Pollo, non si capisce. Ma sì. Cosa? No, il concerto rock, ma vi siete dimenticati voi. Dimenticati? Ma non vi ricordate? Ma no. Dobbiamo travestirci dei cocoriti, no? E sostituire i cocoriti veri per il concerto. Ma travesti... Ah, ma quali sì. Cocoriti? Ma sì, Drago, ha ragione il Pollo. Perché sì, perché in questa versione della realtà noi ci siamo impegnati a fare un concerto dal vivo facendo finta di essere i cocoriti brasiliani. Ma ti ricordi? Ma scusa, ma non possono farlo i cocoriti brasiliani, il concerto dei cocoriti brasiliani? No, Come no? No, ma quelli sono isolati per motivi sanitari, non li fanno neanche partire dal Brasile. Dai, Drago, dobbiamo farlo, Drago, siamo gli unici in grado di suonare e cantare come dei brasiliani noi, quindi... Ma chi? Noi due, io ma e te, sì. Brasiliani? No, io, te, il Pollo e Tarek, come i Beatles. Vabbè, ma solo perché siamo in quattro non è detto che siamo come i Beatles, no, i Pooh non sono anche loro in quattro? Sì, vabbè, ma i Pooh non sono di Liverpool. Vabbè, sono... sono di Verona, no? Per un musicista è perfino meglio, c'è l'arena, può andare lì. Ma cosa c'entra l'arena? E poi anche i ricchi e poveri, ragazzi, i ricchi e poveri per un mucchio di anni sono stati in quattro. Non è bastato certo quello a farli diventare grandi come i Beatles. No, ma questo lo fa o è proprio così, bamba? No, lo fa, io direi che lo fa. Vabbè, no, sentiamo un po' come sarebbe la line-up. La cosa? Le nozioni di primo di classe. Line-up è formazione di gruppo rock con strumento relativo appiccicato di nome di componente. Ad esempio, line-up di Beatles era Paul a basso voce, John a chitarra e voce, George a chitarra e voce e Ringo a batteria e voce, qualche volta. Line-up di Yellow, gruppo svizzero molto più bravo, meglio di Beatles, era Dieter Meier a macchine e Boris Blank a macchine. Svizzeri molto più sintetici di inglesi, anche molto più bravi in musica, leckere Schweizer Musik. La fabbrica di polli. Allora, ci organizziamo? Sì. Ecco, allora io mi metterei al piano, no? Al piano. Sì, perché con le zampe che ho, più che camminare avanti e indietro sulla tastiera, non posso fare. Sarà bellissimo. Poi? Vabbè, poi Tarek canta. Tarek. Tarek canta, eh? E canta. Ecco. Pasta asciutta. Ecco, pasta asciutta. Bene. Cappa. Suona la chitarra? Sì, o l'ukulele forse, pensavo di usare. Comunque. Anche il banjolele. Sì. Allora, capo l'ukulele. Sì. E io? E drago la batteria. Ma come la batteria? Ma io non vado a tempo, la batteria proprio non è il mio strumento. Va bene, ma tanto saremo in playback. Ah, ma no, playback, ma io non sono d'accordo in playback. Ah, invece sì. Allora, siete pronti? Dai, su. One. Il colonialismo cinese, Drago, il colonialismo cinese. Stai delirando adesso, ma altro che delirio, ma che sto pensando al futuro che ci attende, c'è mai stato, che attende i nostri figli e i nipoti. Ah, il colonialismo cinese. Colonialismo o imperialismo, chiamalo come vuoi, ma prima o poi ce lo becchiamo, Drago, pensa. L'Ottocento è stato il secolo inglese. L'impero britannico era la maggior potenza mondiale. I commerci, le transazioni economiche e i più grandi dibattiti culturali avevano sede a Londra. Nell'Ottocento l'Inghilterra aveva ancora l'India e tante altre colonie, ma lentamente l'impero si dissolse e poi arrivò il Novecento, il secolo americano. Con gli americani la colonizzazione non era militare, almeno qui da noi in Europa, ma culturale. Vestiti, modi di dire, musica, cinema. Nel Novecento tutto questo è stato americano al 100%. E nel 2000? Nel decennio del 2000 siamo ancora un po' americani, ma cominciamo già a ingiallirci. Come? Ma sì, ad avvertire la minacciosa ma affascinante presenza del... il colonialismo cinese! Pensa, Drago, invece di vedere le serie TV americane, vedremo quelle cinesi. No. Sì, e non riusciremo a distinguere un personaggio dall'altro. Infatti. Invece di ingozzarci di schifezze fast food americane, ci ingozzeremo di involtini primavera e funghi neri. No, i funghi neri, no! Invece di coltivare il sogno del West, con i suoi orizzonti infiniti e le praterie disabitate, sogneremo un quartiere affollatissimo di Canton, con case senza gabinetto, né ascensore, sporcizia... polli malati, aviaria. Ti piace l'idea? Non vedo l'ora. Quindi, Kappa, cosa vuol dire? Che il sogno dei compagni comunisti degli anni 70, che sembrava che avessero perso su tutti i fronti, si sta avverando? Hanno vinto loro? Certo, Drago. Il sol dell'avvenire sta avvicinandosi. Lo senti? Ah, è un sol questo? Ma certo, Drago, senti. È chiaramente il sol dell'avvenire. È il sol dell'avvenire. Fischia il vento e furia la bufera, scapperò te e tu bisogna andare a conquistare la nostra primavera. Che cosa succederà adesso? Il colonialismo cinese ridurrà il mondo a una grande risaia geneticamente modificata? E che ne è della disputa sul tredicesimo apostolo? Chi si orienta ancora in questa labirintica foresta del mondo distorto? Io. Lo saprete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo fantageopolitico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai.